fredde neve in un inverno di tristezza, birra e panini nei bar della stazione Doom, ed un barbone ubriaco che salta qua e là. Due donnacce sedute lì vicino, un bimbo caccia un passerotto infreddolito che piange piano l'estate passata a cantare. Sette e un quarto ed il lavoro s'avvicina, 7:40, che schifo di mattina, il freddo, il vento, la voglia di starmene qua. Qua seduto nel caldo e tra la gente, a fare a gara a chi è più indifferente, al tempo andato, al tempo che passa e che va. Freddo e neve, stringo le spalle e scopo strada. Già suona l'ora, il mattino si dirada. Il giorno avanza, la sera più avanti verrà.